conosci con nonchalance, che la situazione non qua, qui ti guardo qua, nell'era dei giudici, questi soldi una congiura di me. Come farsi miti tanto, quante santi, non credo più in niente, niente sarà dato alla mia mente. Retto dai grandi sistemi, tra i comuni mortali, morirò senza grossi problemi. Credevo di pensare d'esterno al problema, ne sono essenza, nessuno escluso dal sistema del mediocre. In medio virtus e chi ci crede, in medio evo vivo ed è letale. Comportati da tale, tra tanti consensi, chiudiamo silenti, il ciclo dei vini, ma conosci senz'altro, che ognuno sta al fatto suo, pure quello dell'altro, pure quello dell'altro. Non esiste limite per gente che c'è limite, che guarda oltre limite, alle spalle tiene solo un proprio simile, simile, scioglie il simile, dentro il regno simile, Marco Fede in un momento poco fertile. Pisce in bocca se una mente debole, spingiti più là, ove fetta insostenibile. Dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche, dialettiche elettroniche.